ragazzi nella band e tanti ragazzi anche tra i vostri fan, che sono una razza a parte rispetto a tutte le altre fan base, forse non solo italiana, una razza a parte. Lo so, in effetti io dico sempre che noi abbiamo un pubblico che è solo nostro, ci sono i ragazzi, ci sono le persone della mia generazione, il nostro è un pubblico trasversale, c'è di tutto, di destra, di sinistra, c'è chi crede in certi ideali, c'è chi crede in certi discorsi. Questo è il nostro pubblico. Nel mondo d'oggi avere un certo tipo di pubblico che segue una certa tematica non è facile, e questo pubblico quando ce l'hai non ti molla più, anzi tende a portare ancora altra gente, perché io ho 50 anni e passa che suono, tutte le sere c'è uno che mi dice ho portato un amico nuovo, hai capito? Quindi noi andiamo avanti imperterriti col nostro essere, col nostro pubblico, che è un elemento fondamentale dei nomadi, potremmo dire il settimo elemento, potremmo dire, no? I nomadi, vedi, quando dico io sono per i piccoli paesi, perché ho sempre detto che i nostri piccoli paesi sono le nostre grandi città, perché l'affetto che tu provi e che ricevi in un piccolo paese dove quando arrivi tu sei un evento, e allora questo si sente, noi lo sentiamo dentro di noi, che è una cosa bella, perché ti accolgono veramente, hanno voglia di sentirti, hanno voglia di vederti, hanno voglia di parlare con te, perché noi parliamo con la gente, ci buttiamo in mezzo alla gente, finito il concerto o prima del concerto siamo lì davanti in prima fila con le persone a fare autografi, a fare fotografie, tutto questo. Quindi questo pubblico qua ce lo guadagniamo tutti i giorni, giorno dopo giorno. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Beppe Carletti. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.